Letture di Radio 24. Antipolitica, bene comune, casta sono solo alcuni dei neologismi entrati nel linguaggio della politica italiana negli ultimi anni. Più che parole nuove, sono parole che hanno mutato senso, come racconta Guido Vitiello in un articolo pubblicato sull'ultimo numero del magazine Il, dove prova a dare una definizione di alcuni di questi termini, alla luce dei cambiamenti sopravvenuti nel linguaggio politico. Ecco come Vitiello descrive il nuovo significato del termine territorio. Buongiorno, siamo una piccola realtà operante sul territorio. Superato il fastidio per questo gergo indigesto come un comunicato delle BR, verrebbe da rispondere: e chi non lo è? A rigore, anche il mio aspirapolvere, il mio alluce e il mio criceto ricadono nella categoria piccole realtà operanti sul territorio. Tutto ciò che soggiace alla legge di gravitazione è una realtà operante sul territorio. Cos'è dunque il territorio negli usi non tautologici? Lo si può considerare l'equivalente verbale di una zavorra, una parola che serve a fornire un'impressione di ancoraggio alle iniziative più aleatorie e volatili. Territorio è un bel esemplare di quelli che potremmo chiamare i lemmi del falso radicamento, come rete e popolo della rete, movimenti, associazionismo. Sono enti di fantasia che servono a stabilire un legame di tipo magico con la realtà. Meno generici, qualunquisti e marchiani di gente o popolo hanno però una funzione simile. Danno l'illusione di avere alle spalle qualcosa di più che se stessi o i propri quattro gatti. Si disse che Stefano Rodotà era il presidente della Repubblica voluto dalla rete e dai movimenti. Lorella Zanardo annunciò con fierezza che la sua candidatura alla CDA Rai era voluta dalla rete e dai territori. Poi venne fuori che il primo poteva contare con certezza sui 4.000 gatti delle Quirinarie, la seconda forse su 400. Rete, movimenti e territori sono dunque termini zavorra. E quelle che avete ascoltato erano alcune righe dell'articolo di Guido Vitiello La neolingua della politica italiana, dal numero di dicembre del magazine Il. Letture di Radio 24. BBC Music, la più diffusa rivista di musica classica, dedica la copertina dell'ultimo numero a John Tavener, in occasione dell'imminente 70° compleanno, pubblicando un'intervista esclusiva al celebre compositore di musica sacra. Nato il 28 gennaio 1944, Tavener era arrivato alla notorietà nel 1968 grazie alla cantata The Whale, basata su un episodio dell'Antico Testamento e pubblicata dalla Apple, l'etichetta dei Beatles. Tra le tante composizioni di successo che nel 2000 gli avevano fatto guadagnare il titolo di baronetto, figurano The Lamb, ispirata a un testo di William Blake, The Protecting Veil, scritta per festeggiare il primo millennio della Chiesa russa ortodossa, alla quale il musicista si era convertito nel 1977, e Song for Atini, un requiem inizialmente scritto per una giovane attrice greca morta in un incidente, ma diventato famoso per aver accompagnato il feretro di Lady Diana all'uscita dell'abbazia di Westminster. Al termine dell'intervista su BBC Music, Michael White chiede a Tavener di fare un bilancio della sua vita artistica in vista del suo 70° compleanno. Ho composto molto. Alcune cose erano un po' noiose, ma non c'è niente di cui mi vergogni e niente che vorrei cambiare, tranne, forse, la frequenza. Forse dipende dal fatto che la mia frequenza cardiaca è stata incasinata dal pacemaker, ma quando sento i tempi lenti di tutte quelle cose che ho scritto anni fa, ho la sensazione che dovrebbero essere più veloci. Così sono tentato di cambiare le partiture. Qualche altra licenza che si concederebbe per i suoi 70 anni? Beh, ho delle idee strane a volte, e dato che non mi rimane molto da vivere, penso che dovrei concentrarmi sulle cose essenziali, piuttosto che su quelle che potrebbero rappresentare una perdita di tempo. Ma se sopravvivo a questo 70° compleanno, come mi auguro, visto che ho un sacco di progetti, mi piacerebbe affrontare la Divina Commedia di Dante. Che ne pensa? Purtroppo il progetto di mettere in musica la Divina Commedia rimarrà solo nelle intenzioni, assieme a tutti i sogni per un 70° compleanno che non ci sarà mai. Sir John Tavener ci ha lasciati lo scorso 12 novembre, al termine di una lunga malattia. Tra i molti che gli avevano reso omaggio, anche il collega compositore John Rutter, che ha dichiarato: «Tavener riusciva a fare rimanere il pubblico in religioso silenzio, e questo è un dono raro. Credeva che la musica fosse per tutti e che fosse una preghiera». A distanza di 50 anni dall'omicidio di Kennedy, rimangono ancora molti punti oscuri, sia sulle dinamiche, sia sul presunto killer, Lee Harvey Oswald. Gianluca Ferraris, in un articolo pubblicato sull'ultimo numero dell'Espresso, ne elenca 5. 1. Gli spari. Secondo la versione ufficiale, Oswald sparò 3 colpi, con 2 centri perfetti, in 6 secondi, dal 6° piano di un edificio alle spalle del corteo. Possibile, ma fortunato per uno che nei Marines era schedato come tiratore mediocre e utilizzava un fucile con mirino difettoso. Molti testimoni, poi, riferirono di aver sentito più spari, almeno uno dei quali in arrivo da davanti. 2. Magic Bullet. Secondo le perizie balistiche, il primo sparo colpisce la carrozzeria della limousine e il terzo devasta il cranio di Kennedy. Ne resta solo uno, cui la perizia balistica attribuisce la ferita al collo del presidente, ma anche quelle all'addome e al polso, riportate da John Connelly, che gli sedeva davanti. Una traiettoria pazzesca e non del tutto compatibile con i filmati. 3. Un secondo tiratore? I filmati mostrano la testa di Kennedy che si piega violentemente all'indietro, in quello che per l'autopsia sarebbe uno spasmo. È difficile non pensare a uno sparo in arrivo da davanti, la posizione ideale per chi volesse colpire. Subito dopo le esplosioni, dalla staccionata di fronte alla limousine sale un filo di fumo e la perizia non accerta del tutto modalità di entrata e uscita della pallottola dalla testa di JFK. 4. L'assassino. Oswald, un attivista castrista che aveva vissuto in Russia e mentalmente instabile, rientra negli Stati Uniti e ordina un fucile per posta senza che nessuno lo sorvegli. Possibile? Oswald viene ucciso 48 ore dopo il suo arresto da Jack Ruby, prestanome della mafia e informatore di polizia e CIA. Secondo molti, i due si conoscevano, mentre gli interrogatori di Oswald non erano stati verbalizzati. Perché? 5. La sicurezza. Prima del 22 novembre 1963, circolavano informative su possibili atti ostili contro il corteo presidenziale a Dallas. Eppure nessuno si oppose alla richiesta di JFK di smontare la capote antiproiettile dell'auto e lungo il percorso la sorveglianza fu scarsa. Dopo l'attentato, l'edificio dal quale sarebbero partiti gli spari non venne ispezionato per oltre mezz'ora, mentre le linee telefoniche di Washington subirono un misterioso blackout. Perché? E quello che avete ascoltato era un elenco di quelli che per Gianluca Ferraris sono i 5 punti oscuri mai chiariti dell'omicidio Kennedy. L'articolo è pubblicato sull'Espresso del 27 novembre, a margine di un'intervista a Clint Hill, l'agente della scorta che, come si vede nel filmato amatoriale che ha fatto il giro del mondo, dopo il primo colpo tenta di fare scudo al presidente prima dell'esplosione dei colpi successivi, senza però riuscirci. Ha destato qualche scalpore il cartello apparso nei giorni scorsi in un ufficio del comune di Roma e poi inspiegabilmente rimosso per ordine di un assessore. Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e venerdì dalle 10 alle 12, previo appuntamento telefonico. L'altri giorni dobbiamo lavorare. Si prega di non essere insistenti, altrimenti ci vedremo costretti, anche se contrario alla nostra educazione, a prendervi a parolacce e insulti. Lo scalpore, naturalmente, è tutto per quelle 4 generose ore di apertura alla settimana, indicate con inusitata chiarezza all'inizio dell'avviso. La frase successiva, «L'altri giorni dobbiamo lavorare», parrebbe invece la conferma di qualcosa che si sapeva già, e cioè che il dialogo con i contribuenti non è un lavoro, ma una gentile concessione, e che per ottenere un impiego pubblico, la rivisitazione dialettale della lingua italiana non è obbligatoria, però certamente aiuta. Quanto alla promessa dei dipendenti comunali di seppellire i postulanti sotto un profluvio di contumelie, essa rientra nel quadro di un nuovo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, improntato a trasparenza e informalità. Adesso chi si avvicina allo sportello sa cosa lo aspetta. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Massimo Gramellini, Ufficio Insulti, dalla stampa del 21 novembre.